sto a... Io sono mangiato, e tu? No, io sto prendendo i bambini ancora. Sto facendo ancora la mia suocera a prendere Emanuele. Capa d'asso. Beato se... tra poco mi andare a lavorare. Io stasera devo andare a portare la macchina a revisionare. Ora porti? Vado in auto. La porto, perché io l'ho comprata lì. E quindi vado lì. E mi conosco di tutto. Sì, vabbè, uno vale l'altro, mica la cosa, sono più bravi. Non me la fanno più in fretta, se va. Io almeno vado dove me la fanno subito. E a me me la fanno in fretta. Mi hanno telefonato addirittura loro se volevo prendere l'appuntamento, perché per lunedì avevano un posto libero, io dovevo fare la revisione, invece lunedì me la faceva quella lavoro di sera. Lo volevano fare di mattina, se no di mattina no, di sera. Cappa, no, io vado all'automatico, che gli amici, ho dato le caro qua a Milano, sono vicine. Me la fanno immediatamente al telefono, dico, mi sta arrivando e me la fanno subito. Ma la prova che te la fanno a me, sì. Sì, la fanno tutti, prima era diversi le cose, no, ma io poi vabbè c'ho la macchina nuova, non è vecchia, non ho nessun problema. Sì, la mia c'ha 4 anni, fa 4 anni alla fine di questo mese. E nuova anche la macchina tua? No, no, pensavo fosse una macchina più vecchia, più anziana, dai. No. Le macchine vecchie non le ho mai avute, io le compro sempre nuove, la seconda mano non le ho mai comprate. Chissà perché mi immaginavo che avessi una macchina meno di 10 anni fa, una affare del genere. No, no, no. Io, vabbè, l'unica che ho avuto è l'OT50 che me l'ha dato a mio socio quando ha avuto un incidente con l'altra e l'ho distrutta, quindi mi ha dato l'OT50, però mi è durata poco, l'ho subito venduta. E quando sono stata a comprarmi l'altra, me l'ha data, poi l'ho venduta. Quindi ti hai bucato la capota di una macchina nuova, tu cacchia. E qual è il problema? Basta che tu metti un anticorrosivo, eccetera, eccetera. È fatta da gente esperta, mica l'ho fatto io. Ma non l'hai fatto tu, no, no, perché lì bisogna metterci il matrice sotto, tutte le tensioni, se no se solleva la rutina poi vai là nei importanti. Ma perché dietro ce l'ha già, non l'hai messa in cima sul parametro o verso il portellone la cosa, l'antenna? Al centro cappotta, te lo dico, al centro cappotta, dov'è la posizione delle antenne, dove si deve mettere l'antenna. Infatti tu dico, ma rende? Cappa, la massima resa c'è cioè così al centro. Eh beh certo, perché fa la pelo riflettente la cappotta e praticamente sia registrata che trasmissione va molto di più l'antenna. E già rubio è la posizione ideale è quella. La piazzetta quello che fa, lo sai chi? Quello che fa gli impianti per le macchine che gareggiano con gli stereo al quadrato, li hai mai visto? Cappa, chi è questo? Ce ne sono diversi, non so chi è questo. Fuggi. Boh, di nome non ce l'ho presente, dov'è, che zona è? Via Montello! Ho capito, ho capito. Fare un foro non si via, però fare in modo che nel foro non entri umidità è un po' più problematico, perché bisogna pulirla bene il posto, no? Fatto bene, messo del matrice, c'è sempre grasso, non di quelli tipo silicone, cose del genere, perché tutti mettono il silicone e poi dilata e non so, vedete, ci vuole un matrice grasso. No, non ne ha messo di queste cose qua, ha messo solo una specie di coso che ci aveva, lo pennellino, attorno aveva fatto il buco e basta, tutto lì. E dove c'è la guarnizione, sono la guarnizione dell'antenna, capito? Ma io che mi stai sfratellando, già, dove sei? Io vi apro di sedda. Aia, capo, mi senti chiama, sì? Hola, aspettate un attimino, due secondi, vediamo un po'. Un secondo, passa un secondo. E voilà, dai, mi sentite, sì? Aia, ma sto a un lavoro, ti stavo, c'è un microfono normale, apparecchio omologato, c'è il buco, così ti splatto. La su 5, ma ti intendi un po' di casotto, no? No, vabbè, niente, dai. Cava Gama! Luca! Ho rientrato, buongiorno signori! Buongiorno anche a me! Luca, come hai soldi con questo microfono? Ultimamente già, di lusso, va più che bene! Ma questo è normale? Secondo me conviene usare più di normali, è più chiara la radio, così siamo lì a metterci, vabbè, è un microfono amplificato, è più forte, chiaramente, però... Qua è buona la radio già, 5 è chiarissima. Cappa, cazzo. No, che magari se lo usi come usavi l'altro non esce, ti esce Massi in radio. Lo so. Vabbè, tu già cerca di... quando stai guidando ti dà un'occhiata a parte all'altra, se non puoi guidare è bene, se non puoi guidare è cicchia. Infatti. No, ma già va bene questo qua, anche lontananza qua ho detto che mi senti va bene, che sembra quasi appiccicato. Va bene, avanti, ca. Sì, questo è lei. Buongiorno a tutti, Claudio Farviero qua in radio. Roberto, avanti, volevo dire qualcosa. Ma lì perché ci mette un corno, cioè si ammassa l'amplificazione e si attacca un corno. Un corno, cioè per fare radiare di più? Corno, c'è un tipo tromba, si attacca al microfono alla bocca e parla col microfono. Cioè, sarebbe una cosa ideale, cazzo, io qualche giorno mi metto sotto al tetto col corno e vi chiamo tutti da lì, tanto mi sentite lo stesso, faccio il corno, anziché lo sparviero faccio il corno. Burraccia, si dice. Cappa di cappa. Spieghiamo una cosa, con questo apparecchio 1-1, con l'altro 1-2, perché? Non lo so, vuol dire che quello ha un riferimento superiore, anche come il watt, capito? Bastano magari 2 watt in più, magari quello là ne dà 3, questo ne dà 5 pieni ed ecco lì che è il problema, capito? Più sale di potenza, più ti segna lo strumento, anche gli stazionari. Andava, infatti le ho regolate, si chiamava bene. Si chiamava bene, KK. Ma 1 e 2 lui, sono perfette, io lavoro con 1 e 2 lo stesso, senza accordatore, senza niente. Capito? 1 e 2 sono, guarda, le stazionarie perfette. Ricordatevi che le stazionarie non devono essere a zero, le onde stazionarie devono lavorare, quindi la media è da 0 a 1,5, 1,4, 1,5, la media è quella. Quindi se c'hai 1 e 2 sei perfettamente proprio più che normale, Luca, quindi se tu attacchi magari uno strumento o l'accordatore addirittura, ti fai solo danno a te stesso, capito? Perché stai andando in perdita, tutti gli spezzoni, quelle cose che ci attaccate, non servono a niente, la radio perde moltissimo anche di segnale, capito? Quindi se stazionale non ne hai, l'accordatore tu gli trovi. Ogni tanto magari glielo attacchi lo strumento per vedere se tutto a posto, come faccio io, ma non c'è problema. Beh, infatti se lo attacco, perché io mi ricordo quando prima di darmi sulla, come si chiama, quella spirale là, quando c'era quella vecchia, mi salivano 1,5, dipende dal vento, come si, anche a 2 ci sono saliti, anche a 2, no a 3, no a 2, adesso quasi sul rosso era. E quando gli ho piazzata, erano sempre 1,5 nel seguito, e porco boia, poi si è salito su, un po' l'ho abbassato, l'ho buttata un pochettino più su. Proprio guarda, l'ago del Rosmat neanche si muove nulla, proprio fermo, stabile. Infatti adesso sto guardando sale, uno sono, modulati. È perfettissima lui, è perfettissima, guarda. Quando una volta tu le fai la taratura come l'abbiamo fatta noi, che l'antenna è nuova, è montata a regola d'arte, non c'è nessun problema di tenere strumenti collegati, soprattutto accordatori, perché gli accordatori hanno la tattura di impedenza per poter abbattere le stazionarie e quindi automaticamente ti porta via, anche ti ruba sempre quel mezzo decibel che può servire magari per farti sentire più lontano, capito? Quindi io ti consiglio, se stazionarie non ne hai, che stai lavorando 1 e 2, staccane tutto, magari ogni tanto, ogni 10 giorni, ogni 15 giorni glielo attacchi per vedere se tutto è regolare, ma non serve a niente tenere un accordatore con 1 o 2 stazionari, capito? Niente, proprio zero completamente, vai solo in perdita lui. Infatti l'ho staccato, dai, l'ho staccato adesso e niente, già va bene, cava, ripeta Gianni, ma Gianni si è sparato, andava Roberto. Blu, ma non ce l'hai tu perché con la spietta rossa nel Midland, l'indicatore di se c'hai altre stazionarie? No, roba non c'è bisogno, no, questo non ce l'ha, questo è un 34 canali. E vabbè, poi per le stazionarie c'ho il rosmetro, che lo tengo sempre attaccato, ma sono staccato, dai, almeno è più tranquillo, esce normale. Noi ci dobbiamo avere un mezzo Claudio, un mezzo punto in meno, ce l'ho in più. Ma cazzo, me lo faccio mettere meno problemi di ripetite c'hai. Direttamente all'antenna e il segnale si è pulito pulito. Infatti io qua a Rosmet l'ho messo per, siccome c'è la lampadina, visto che ho due baracchini, io ho messo a Rosmet con la lampadina, fa, insomma, più illuminato rimane. Ma guarda, adesso lo levo e ciccia, poi più là vedo di fare una scatoletta, boh, qualcosa per... oppure me ne compro un altro, rosmetro, wattmetro e ciccia, metto la lampadina e via, dai. Però bisogna avere più spazio, se no qua non si sa più niente. Luca? Ehi, ah. Ma che per sbaglio c'hai qualche contenitore tu in metallo vuoto, che ci devo mettere, non c'ho un alimentatore grosso io, però è tutto rugginoso l'involucro, volevo mettercelo dentro. Del nonno, proprio di quella roba lì, nulla roba. Questa cosa qua la dovresti chiedere Antonio, ma qualcosa ce l'ha lui, prova a chiedere Antonio. Ma ti immagino lampado, quando mi serve la roba poi non la strugli. Non lo sai così roba. Chiedi Antonio, vedi un po'. Allora, tu Claudio non è per caso? No, Robè, te l'ho dato volentieri, ho capito cosa devi fare. Io tempo fa addirittura stavo cercando quelle scatolette per poter mettere dentro il modem del packet del computer e non ne ho trovato addirittura. E allora per te è facile, Robè, basta che prendi i quattro pezzi di alluminio. Te li sa come officina stessa lì da te, te lo fai, non è un grosso problema, magari avessero tutto il posto che hai tu per poter lavorare. Vabbè, ma se c'è già fronte con tre mai di qualche alimentatore vecchio, di qualche cosa elettronica, quelli io ce li ho due scatole, ma sono troppo grandi, non me ne posso nulla, cioè quelle dove c'erano i trasmettitori vecchi FM, c'era tutto il gruppo dell'alimentazione, li voglio recuperare, però sono troppo grandi. Con la forbice, quella lamiera o qualcosa, con la cesoia, insomma, qualcosa, cerchi di farlo un po' più piccolo, lo assembli e ci butti tutto dentro, che problema c'è? Adesso volevo studiare qualche cosa, ma ce n'è un altro, voglio mettere uno diretto sul Midland, sulla 48, e uno per il portatile, così non sono ogni volta a smontare, me lo lascio fisso al Midland e non sono a toccare ogni volta. No, XL, va benissimo, ok. Che ora siamo neanche le due, ancora un po'. Mario non si è sentito perché a Cagliari oggi mi pare, era fuori Sassari, Cagliari, Gustini, quelle zone lì. Mi pare andato così Luca ieri, no? Ma fermo io, adesso mi sono dimenticato, infatti aveva detto che andava a quelle zone lì. Ehi, dovevo andare alle 7, dovevo partire. Doveva andare a Cagliari, Gustini e poi non so che altre zone. Doveva andare scarico e tornare con il carico. Sì, capo, confermo anch'io che devo andare da quelle parti lì. Ma penso che sia già rientrato, Micra. Non credo che... o sta rientrando sicuramente. Vabbè, lui si è fermato a pranzo da qualche parte. Anche mangiarsi un panino. Se a Gustini ti aspetta, sono state anche brutte, il tempo è brutto, quindi magari se l'ha presa con calma, senza nessun problema. Va bene, vi ascolto, non so neanche io come definirvi, è tutto benissimo qua, su queste nuit, alla grande, proprio perfettamente, tutti con un buon segnale, Luca addirittura c'è 9:30, Gianni lo stesso, va bene, riesce vicino a me, mentre Roberto fa una scala perché siamo più vicini. Io non vi apro di te da e tu sei 9:30 lo stesso. 9:30, mentre Luca invece 30 con picchi positivi e 35. E Roberto 9:60 qua fa la scala, si attacca tutto al massimo, vabbè, ma noi siamo vicini, comunque avete ottimi segnali. Ottima ricezione, la mia radio non è delle migliori, sono tutto intasato. Adesso vediamo se passa un po' questa influenza maledetta. Già passa. Io due volte mi sono raffreddato, due volte, mal di gola. Prima volta, vabbè, cosa leggera, ma fastidiosa. Poi la seconda volta, mal di gola era tremendo, proprio atroce, proprio brutto, non c'è la mania nuda. Grazie a Dio, ma era morto, era al caldo, al freddo, lo prendeva morto, tipo in mireccia. Ma male io qua non ho niente, anche se c'è freddo nella mia la camera. Però Mari se ne esco tranquillo che va tenuta. Però se sono al caldo, a me mi fregava la Maria Luisa, mi andavo, siccome c'era un caldo lì da morire. Stavo lì una mezz'oretta, un'oretta, un ci abbiamo la moto, pum, fulminato. Lei manca qua la sera, infatti io cerco di stare sempre leggero, anche a maniche corte, perché qua la sera c'è molto caldo, qua il riscaldamento c'è un automatico, si attacca alle 3:30 e si spegne alle 11:30, quindi figurati tu, c'è molto caldo. E quando viene Franco qua, o Teresa, mamma mia, loro abituati lì a quella temperatura, quando vengono qua, signora Teresa sta lì, aiuto, c'ho caldo, aiuto, c'ho caldo. Perché talmente l'abitudine, loro magari hanno una temperatura più rigida, capito? E quindi non sono abituati a tutto questo caldo. Kappa, Robe, stai andando col portatile? Basta, si sente e si vede. Ah, si vede col baracchino qua, poca differenza, notto. Magari con l'altro ricevitore notavo un po' più la differenza, ma col baracchino si vede poca, si vede poca roba. Comunque va benissimo anche col portatile lì, non c'è problema. Ok, ritirati i bambini già? Kappa, sono già vicino a casa di Franco io. Ho capito. Stai andando sempre benissimo, segnale sempre alto, la radio è buona. Diventa un po' più bassa quando te lo allontani dalla bocca, ma è chiaro, normale manovra, altrimenti insomma si passa agli altri atti già. Kappa, Kappa. Adesso vediamo un po' là. Se lo fa resistere. Ma chi c'è? Marco Lino Bacchietto? Lì. Ma che hai visto? Olè, vai, arrestato. L'hai visto? Non lo conosci? Vai via. Kappa, kappa. Ma non sei, forse magari sparato. Quello di Alghero che ha tentato di... quell'attentato al non so cosa dice, sì, sono un politico giurico. Allora Gianni, Marco Lino Facchini, tu con te? Eia, aspetta che te lo faccio. Marco, mi sei dico la vita. Facchini, ti ha detto, ditemi. Sì, risposta. Ah, mi ha detto Facchini a me. Ah, Marco Lino. Oh, ma è vero, un mal di testa micidiale. Non si uscitono. Kappa, kappa. Sentiamo allora, che là. Riprendi, Robè. L'ha detto, l'ho sentito basso basso. QRT, sta chiudendo. Ciao Gianni, alle prossime, dai. Ciao Gianni, cordialità 73, buon pranzo, dai, ci sentiamo più tardi magari, se coincide l'orario. Tanto che sei a riposo, quindi non devi andare da nessuna parte. Ok, molto bene. Mi senti bene Roberto, sì, lì col portatile? Sì, benissimo, perfetto, niente da dire. Ho provato anche con l'altro, col faccio prima, che perfetto, niente da dire. È una radio un po' così. Sempre a causa della mia voce potrebbe migliorare, insomma, ma così è più che soddisfacente, guarda. Sono contentissimo che tutto proceda bene. Ottimamente. A Luca Flipper, che ho fatto spostare l'antenna stamattina, ma invece di migliorare ha peggiorato. Non segnale bassissimo. Pensiamo fosse questione di posizione d'antenna, invece niente da fare. E rispetto all'altro, come mi ascolti con questo col portatile rispetto al microfono, alla palma del passe? Più alto questo o più alto l'altro? No, beh, questo ha una tonalità molto molto più chiara, Questi portatili hanno queste capsule micidiali, vai molto molto bene. Anche l'altro va bene, però dobbiamo cercare, o cerco io di eliminarti quel gracchiare, perché lì vanno puliti, siccome sono delle lamelle, i vecchi microfoni sono a lamelle, vanno pulite con la carta leggera, e basta, e sputarla appena di contatto, proprio di prodotto dove ci sono i contatti che spingono. quanto lo stacco si sente dell'apertura e della chiusura della pelle. No, io non so se Luca l'ha notato, ma poc'anzi notavo anche un leggero gracchiare, capito? Oltre allo stacco questo leggero gracchiare, quelle sono le lamelle sporche che quando toccano una con l'altra c'è impurità, c'è ossido e quindi graffiano, capito? Di quelle vanno pulite piano piano con calma e messe bene a posto, perché la modulazione della capsula è molto buona di quel microfono, la capsula dinamica che spinge molto bene per essere un microfono normale, capito? Tipo questo, vedi, non so, questo è l'Inuit, è normalissimo, però c'è una capsula che va bene, quindi la modulazione è abbastanza forte, magari meno chiara, però abbastanza forte, capito? Vai Luca. Ehi, vediamo se un po' è pronta, mangiare, perché non va, mi sta spaccando lo stomaco in due. Comunque ci rimango in ascolto, la mia sono quella del giornale, riprendete voi. Claudio. Ehi, allora, siamo qua. Io ancora un quarto d'ora, 20 minuti, poi mi sdraio un pochino, perché è un po' pranzo, prendo la pastiglia, già non mi viene un giorno. E poi magari sentiamo dopo, dimmi, Robè. No, ma esistono microfoni da tavolo senza essere amplificati? Ma certo che esistono, io ce l'ho. Io ho un tuner modello 754 che praticamente non ha pomello di... non ha potenziometro di amplificazione. Capsula normalissima, la capsula ceramica normale, sempre del termo IP3, però non ha potenziometro di amplificazione, quindi lavora solo con Mickey Game. Ma no, guardi, se non sa modificare l'altro, ci metto un palmare, ho messo fuori a palmo dentro, direttamente, senza bisogno di quello vecchio, ti ricordi quello, il CTS? Quello... ma sì, ma quel CTS lo puoi usare tranquillamente. Quel CTS si può usare tranquillamente. Anzi, se me lo porti, io che ho tempo, adesso sono a casa, se ti ricordi di scenderlo, magari dopo in officina, me lo dai e cerco di sistemare bene quel PTT, di renderlo più morbido, insomma, di farlo andare meglio, ecco, capito? È un buon microfono, quello va benissimo, non è molto amplificato, è una modulazione chiarissima, bella, pulita, e ti consente di non tenere il microfono in mano, capito? Quindi puoi usare anche quello col patch. Faccio una male, non so se riesce a morbidire quei tasti che non ho fatto, perché forse tocca qualcosa dentro, blu. Ma sono delle molle lì, sono delle molle con dei pulsanti di quelli che praticamente tipo interruttori, dai, chiamali come voi. E chiaramente con l'andare del tempo magari si mette dentro la polvere stessa, tutto il sistema che c'è nell'aria e quindi diventa così. No, portamelo dopo, portamelo giù, così me lo dai e intanto c'ho tempo, qui mi metto a fare, anche stamattina mi sono messo a sistemarmi un'altra radio, perfetta, l'ho tutta sistemata, infatti c'era Marco, mi è piaciuta moltissimo quella, l'ultima che ho preso, quella amatoriale, molto bello, sono qualità prezzo, hai visto cosa ho preso. Qual era l'altro piccolino baracchino? Che marca era l'altro che avevi sopra l'Inuit? È il Supercar. Ma quello non lo utilizzi o qualche volta? No, quello ce l'ho così qualche volta, così tanto per provarlo, ma non è un baracchino omologato, quindi non mi interessa. Capito? Però anche quella è una bella radio, funziona perfettamente. La tengo di scorta, così non si sa mai, ma uso sempre l'Inuit perché è omologato, quindi mi consente la massima tranquillità, capito? Gaffa, non sei mai prudente. Vabbè, bisogna sempre essere in regola, sempre fare le cose nei dovuti modi. Molto bene. Sì, se me lo porti quel microfono te lo sistema, un peccato, anche perché ti ripeto, puoi tranquillamente usarlo, la modulazione non è forte, è un microfono da tavolo, però è normale, quindi va bene, non ti consente di tenere il microfono. Se ci sono in vendita microfoni, io qualcuno ce l'ho, tipo l'IM33 della Iaeso che l'ho dato a Franco, lo sto usando Franco sul suo omologato, ed è un microfono a tavola senza nessun. lo puoi tenere, non ci sono problemi. Mi capa, molte volte quando si è seduto le macchine, adesso sono in questa posizione, forse va meglio così, però molte volte è più comodo averlo all'altezza giusta della bocca, schiacci il tasto e parli, anziché avvicinarti. Ma lì su quel portatile che hai tu, c'è qualche connessione a spinotto per il microfono? Beh, attivo niente, no, questo non ha niente. Peccato, perché si poteva tranquillamente adattare anche uno un microfono normale, capito, col tipo di portatile, per esempio io ho il TH28 che è un portatile VHS, no? E c'è il suo microfonino, anche, ho anche il suo microfonino, capito? Che ti consente di non tenere il portatile in mano, quando magari vado in giro, eccetera, me lo attacco alla cinghia e uso il suo microfonino che si attacca con la pinzettina alla camicia. Allora questo è un apparecchio economico, diciamo, di basso costo, dai. Ho capito, vabbè, va benissimo, però ti consente di chiacchierare tranquillamente senza nessun problema, va più che bene, ottimamente bene. Ma fai quella roba tua quando arriva, niente? Ma non lo so, io ho fatto tutto sabato, oggi è lunedì, considera domenica, oggi è lunedì, quindi io penso se hanno già messo in moto tutto oggi, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì sarà tutto qua, ma devo solo sballare, c'ho l'elenco di quello che devo mandare, viene uno glielo mando con l'SDA, con un mio amico di Sassari, che lo consegna a sua volta al Corriere di Olbia, capito? Fa la cortesia, lo manda a Olbia, l'altro invece viene questo mio amico Larghero e si prende tutto. Ma poi dentro avevano anche altre attrezzature questi, elenco che hanno mandato del resto? No, no, negativo, c'è l'elenco dentro di quello che abbiamo stabilito che mi devono mandare e basta. Sono tutti baracchini, dobbiamo praticamente consegnare questi due miei amici, là, ci hanno due ditte di autotrasporti, uno c'ha una ditta di trasporti ad Alghero di Corriere Espresso, siccome c'ha tre macchine, le mando tre radio, le metto nelle macchine, tre omologate, tre Midland, e l'altro noi ce ne ha quattro di macchine ad Olbia, e anche lui mette le radio in macchina, perché c'è, tanto sono tutte dentro Olbia le macchine, qualcuno va a Racchena, così, insomma, Sant'Oloro, eccetera. Però è meglio che abbiamo le radio, perché lui da casa riesce a gestire tutta la situazione anziché stare sempre al telefono, capito? Certo, se fanno quel tipo di lavoro per comunicare anziché prendere soldi col coso, fa la concessione e si mette tutto a posto. E sì, ce li ha già la concessione, tutto, sono già tutte e due a posto, sia uno che l'altro. Ha già fatto tutti i versamenti, tutto in regola, tutte le coppie, le omologazioni, eccetera, capito? Cappa. Ma come scorso l'ho sentito prima di attaccare tu, di sentire a te un attimino, ha salutato e basta, fuori non ho avuto modo di parlare. Sì, era qua stamattina, è passato a prendersi il caffè, era appunto impegnato col QRL in città e quindi è passato un attimino per il caffè a fare due chiacchiere, a vedere quella radio che mi è arrivata e niente, poi stavamo pensando appunto così di vederci in settimana, eccetera. Niente, tutto. E lui di radio ne gira parecchio, ogni tanto sento prova questo, prova quell'altro, diversi. Che genere? No, ogni tanto ho sento prova di questo, prova microfono, prova questo apparato, ho preso questo nuovo, dico ne deve aver girato tantissimi. Beh, Marco è un grandissimo radioamatore, come me ha le radio che fanno parte del settore amatoriale, poi come me ha tanti baracchini, anche lui comprati così come me, e quindi ogni tanto me ne prova uno per me se va bene, qual è la differenza tra uno e l'altro, la tonalità di radio, eccetera, capito? Ma niente di particolare. Ma capire, magari l'ho fatto più che altro per passione, per divertimento, vedere la differenza tra una e l'altra, poi le gira, le rimette da un'altra parte, eccetera, eccetera. Ma come certo, come facciamo con tutti, no? Anche a me a volte capita, come va questo Milan, come va questo Inter, che capite? Cioè, tutti i baracchini che vai, ce li ha lì, li provi per vedere qual è quello più affidabile, ma in linea di massima non cambia mai niente, diciamo, ecco sì, ci può essere la tonalità microfonica, che magari una è più alta dell'altra, una è mediocre, l'altra è scarsa. Si fanno queste prove così, giusto per provare, no? Come fa Luca, magari stacca al Midland, attacca al Mobicom, così, tanto per vedere un po' le prestazioni, ecco, come fai tu, attacchi in portatile, poi magari passi al pace, come fa Gianni, come facciamo un po' tutti in generale, ecco, ma perché ci consente magari di farlo, visto che anziché avere un baracchino ne abbiamo tre o quattro e lo facciamo. Vabbè, non è il caso di sì, io già ne ho pochi, non ne ho come voi tanti di barattine. C'è chi ha iniziato tanti anni fa e tu sei l'ultimo nato, quindi chiaramente hai già fatto un passo da gigante, visto che prima andavi con uno scalda bagno, adesso invece vai col rubinetto direttamente tutto aperto. Diciamo, i miglioramenti li ho avuti in proporzione molto più velocemente di quanto avete avuto voi nell'arco degli anni, perché io sono passato da un giocattolino, poi mi ho messo l'antenna nell'arco di due mesi, magari non sono tutti che ce l'hanno fatto quel salto così rapido, diciamo. Assolutamente, io in particolare mi ricordo, prima di mettere una 5 ottavi, anni e anni che ho tenuto un quarto d'onda, perché così mi sentivano e quindi facevo, però sai, nella vecchia era, diciamo, oggi nell'era moderna è chiaro che uno che sta facendo già con un quarto d'onda e deve realizzare un qualcosa di più serio, dice no, mica mi metto la Grand Play così, prendo direttamente un'antenna come Cristiani, 5 ottavi, la monto e non se ne parla più, poi magari posso anche uscire col portatile, però intanto l'antenna è già sistemata al suo posto e non ho problemi, capito? Invece tu hai fatto sia il salto dell'antenna che il salto di qualità sulla emissione radio, no? Perché hai preso una bella radio, stazione base, omologata, 40 canali, che ti consente di avere un qualcosa di più serio del portatile, ecco. Però sicuramente sì, il salto già l'ho fatto grande, magari non sarà l'ultima evoluzione, però diciamo rispetto a questo almeno c'ha qualche strumento e c'è l'alimentazione interna, che è la cosa che mi interessava più di tutti, non avere un rompimento di scatole di fili e di batterie che si scaricano. Ecco, c'è vero, ma guarda, il discorso radio vecchie c'è sempre da desiderare, perché io che faccio attività amatoriale ti posso garantire che ho radio, diciamo, di ultima generazione, ma uso anche radio di vecchia generazione, e ti posso dire che l'emissione radio è sempre la stessa, non è che cambia molto, sì, c'è un po' la qualità in ricezione, perché una magari c'ha digitale, l'altra analogica di vecchia generazione, però ti posso dire quest'ultimo atto, cioè che non l'ultimo atto, ultimo atto nei miei confronti, cioè che ho comprato io questo Top One, che è un base VHF, è una bellissima radio, trasmette come gli altri, riceve come gli altri, ha la qualità di essere una stazione fissa a 220 con 100 watt di potenza, che io tranquillamente posso erogare in VHF perché la legge me lo consente, e quindi non è che lo trovi tutti i giorni, perché noi radioamatori che usiamo apparecchiature VHF e UHF e i veicolari sono tutti da 25 watt, quindi avere una stazione base così e qualità prezzo, perché l'ho pagato una fesseria, avere quella potenza, avere quelle prestazioni, non è che è facile trovarla. Ma dimmi una cosa, in macchina quante che ti puoi portare di potenza nelle maglie amatoriali, quanto è il massimo che puoi uscire? Come a casa o c'è differenza? No, per me non c'è nessuna differenza. Per cui uno che vuole fare degli esperimenti si prende una batteria grossa, se la attacca di lì vicino e può utilizzare lo stesso apparato per dire che c'è a casa alimentando la 12 volt. Ma guarda che tutte le apparecchiature amatoriali, vabbè, ci sono quelle a 220 volt, come il mio 940, ma l'effettivo V20 è a 12 volt, non è a 220, il TS2000 è a 12 volt, quindi posso tranquillamente staccare il TS2000 in VHF e UHF, metterlo sul sedile e andare in trasmissione, va bene, non è che tutte le radio amatoriali sono a 220. Ma io pensavo ci fosse limitazione di potenza, cioè uso fisso oppure uso mobile, perché infatti la domanda io leggo sempre apparato mobile o apparato fisso, non capisco la distinzione, ma per quale motivo l'abbiano fatta. Mobile vuol dire praticamente non a casa, ecco, c'è il mobile marittimo che sono le barche, mobile portatile che sono le macchine, capito? Quindi per noi l'animatore, ripeto, non ha nessuna importanza l'emissione radio, l'emissione di potenza sia a casa che in macchina. Non cambia niente. Aspetta un secondo. Scusa, vabbè, pensavo che c'era qualcuno che mi stava chiamando in UHF. Capito, quindi il discorso è quello. Kappa. E Luca che ha fatto? Non lo so, è in Quarix. È in Quarix. Vabbè, sono le 2:20, intanto tu hai scendi a pranzo, io ti saluto e mi prendo la pastiglia e me ne vado un po' in 144, semmai ci sentiamo stasera, ricordati di portare quel microfono così che sono a casa ti do una controllatina, ok? Papà, Monsuto, ci sentiamo stasera, ciao. Ciao Roma, ciao, buona serata. Roberto, vai a lavorare. Ciao Lu, sentiamo stasera, vai. Sto scoppiando, non so, attacco i tossi, magari dai. Ci sentiamo magari più tardi, ciao. Passa un fuma, ciao, da stasera, ciao. Ciao Luca. Ciao Lu, ciao, anche a te, ci sentiamo stasera. Bravo, ma in peggio sei andato, Lu. Vai. Tu vai dentro un coso, una sagnara. Stamattina sto facendo bene. Aspetta un attimo, questi li prendo io adesso. Scusa un attimo, questo canale è occupato da un quasio di Sassari, ve ne siete accorti? Cambio Maro, te ne sei accorto che questo canale è occupato da un quasio di Sassari? O non mi senti? Noi stiamo parlando qua, tu sei entrato e sembra modulato un signore che stava parlando, ti sembra giusto? Sì, questo canale è occupato da noi, stiamo parlando, non ho capito, tu arrivi così, senza guardare chi sta parlando e ti intrometti nel questione, va bene? Yeah. picchione, ci picchio. Non è un T tipo di radio per usare qua. Per carità. Beh, infatti, mi ci la mettono a posto con un po'. Ma io la verità non le capisco un tubo, ma sembra finita. Cado, la conosci, te l'ha detto che lì è, funziona bene in altre frequenze, in altre, cioè per esempio ma da laterale funziona bene, ma in AM dici che è una cagata. Beh, infatti, sì, quelle lì sì che funzionano bene tu, perché si sa, però quella che c'è Mario, è un bel, forse vabbè già la porti lui un po' strana, lui usa la radio lì e dici tu, tutto strano. Se mi c'è un baracchino vai a cucina la suona, se iniziamo a parlare di radio, non devo comprire. Guarda, siamo non fare bene. Sì, ma tutte le conosci, tutte. Tu stai parlando? Ehi, con Luca la porta. Hai misurato, hai, ma non volevo essere cartella. Cos'è? Stai dicendo radio? Cosa stai dicendo? Non ho capito. Di che radio stai parlando? Torna visivo, il 140. Torna con il 140, G. Come con peggio l'italiano, tu. 140 è una radio per gli amatori, ti ho detto. Non è una radio per la 27. 18. Ma come non siete capito? Ti ho detto che una radiolino... Lavate le mani, anche i piedi, questo è quello, c'è un radio che usa nel radioamatore, non i CB, devono usare i baracchini, caro Luca, capito? Quindi fregate, cercare un bel baracchino, se c'è cioè me, un bel omologato, stazione base, vedrai che è più contento, capito? Buonasera, ben sentito, come va? Fammi, bisogna andare a lavorare. C'è Luca? Salutami Luca. No, Salvatore. Sera, è il destillato di Luca Claudio? È il destillato di Salagato, Claudio? Squillante, attento sempre. Ultima radio, Luca, va benissimo. E l'altro Luca, Delfino Flipper, che non sentiamo bene con questa antenna di plastica che c'hai. C'è qualcuno che chiama in sottofondo ma non riesco a capire chi sia. Chi è che chiama? Avanti? Mi è sembrato qualcuno che chiamasse in sottofondo ma non sono riuscito a capire qual è il problema. Non so. Va bene, quindi stiamo andando a lavorare, bisogna andare. Io qua sto facendo un po' di 10 minuti di orario, poi vado anch'io a coricarmi, però mi ho preso la pastiglia, non lavorare. Avanti, Flipper, lo senti a Salvatore Maestrale? Hai sentito Salvatore? No, negativo, niente, no, non mi credo, mi sento un po' di correndo in macchina. C'è una malattia, ho iniziato la cura da poco, adesso venerdì dovrei rientrare, però prima di rientrare faccio la visita di controllo, se tutto va bene me ne rientro a lavorare, se no non ho gli attacchi epilettici, ho a casa. Ma se stai dove la colazione non ti conviene, magari qualche tempo e si dirà così dal dolore. Qualche cosettina, non fare qua a casa, capito? Tutto lì, niente da fare. Ok, Vabbè, vediamo un pochino com'è la situazione. Avanti, Luca Sassari. Un giorno di Sassari. Cava, ma il tempo sta di nuovo girando, ha fatto un po' di sole. Si è fatto di più che giorno. Che schifo di tempo, quello che ti frega, raga. E mai tra la freddura mi viene a me, tu e ciò che. Verticalmente e in orizzontale, capito? Quello è un orizzontale, perciò secondo la posizione che la metti, va bene, se l'hai coperta, se è bassa, non lo so, cosa ti devo dire? Io so che funziona così e funziona perfettamente. Se è libera, un guadagno eccezionale con l'antenna. Quindi verticalmente stava ricevendo e in orizzontale non è l'unirradia, perché è radio l'orizzontale lì, non ti dimenticare, essendo un'antenna omnidirezionale le radiazioni ce l'ha orizzontale, non verticale, quindi il verticale ti serve per ricevere e l'orizzontale per trasmettere, se tu copri, mi copri l'orizzontale, trasmissione non arrivi neanche alla landrica. Scusa, diciamo, non ho fatto... Dici, io non lo metto, non ci sono i VAR. Metto, dici, dai, non lo metto, non ci sono i VAR. Portalo a 10. Ma come te ne metto a me? Ma cosa ha fatto? Io non ho capito cosa ha fatto. Boh. Ma perché non ha fatto com'era? Allora, poi mi riconfermi, fra. Ha detto, Franco, di girare non lo metto, pure mai scudo più, fra. Cioè, se il box vuole, dove ci sono i VAT, devi girare la manopola del VAT mentre dove ci sono i VAT. Se girare la manopola dove ci sono i VAT, portala a 10, vuol dire? No, nella scala 10, devi mettere il VAT mentre nella scala 10. Bloccato tu. Devi mettere la... Porco buia. Devi mettere il VAT mentre nella scala 10. Gira, oh no, gira il, la manopola del VAT e metto nella scala 10 e porta la radio a 10. Capito, ciao Fra, buonasera. Gliel'ho fatto saltare io l'antenna perché pensavo che fosse in posizione più ideale, invece praticamente ha peggiorato. Ma il radiale orizzontale di quella boomerang Fra è a 45 gradi, non è chiuso. No, no, e lui non è non ha 45, ha 48 e qualcosa. Meglio ancora, è ancora più aperto, non si vuole poco fare, parlava il quadrato, detto, ma non è che tra il verticale e l'orizzontale è formato un quadrato e chiuso il lombo di radiazione, ma detto di no. Quarantena bisogna metterla in una posizione dove irradia Fra, perché io dicevo a Luca di montare una sassa di Dannello nel poggiolo e arriva anche ad Alghero, capito? Arriva anche ad Alghero. E bisogna montarla bene, cioè cercare il punto dove l'antenna irradia bene e si abbia tutto il lungo di radiazione libero, perché altrimenti si chiude e non va bene, perché quella irradia sia verticalmente che in orizzontale, sia verticale che in orizzontale. Quindi secondo se c'è i lati chiusi non esce, non esce libera, precisamente in alto è libera. Sì Roger, proprio il problema suo fondamentale è che lui praticamente è al secondo piano, quindi oltre a lui ci sono altri tre piani più la mansarda, quindi conta che ci sono all'incirca 30 metri di copertura. Lui è puntato, dove l'ho puntata io, l'ha puntata verso Trattamora. Quindi la mobile guarda non va lì. Però diciamo che con una tonatona di più accordo riusciva a essere più forte. Io non ascoltavo qua, adesso non ascolto proprio niente, zero. Ma la stessa cosa ti dico io, stamattina io lo sentivo 3, 4, ho detto lui prova a spostarla leggermente, vediamo un po' se troviamo il punto esatto. E invece adesso mi è completamente sparito, segnale 1, ma sento solo basso basso del radio, capito? Ah, io pensavo fosse all'ultimo piano, c'è il secondo piano, caro mio, non ce n'è. Ma scusa, nel poggiolo, anche se è al secondo piano, nel poggiolo, non può sporgere fuori l'antenna tranquillamente, non è che è alta, no? Quindi non dà fastidio a quella di sotto. A meno che quella non estenda i panni e le dia fastidio, ma trovare un angolo del poggiolo dove metterle una barra che esce fuori e montarci l'antenna, non si può fare, cioè l'hanno sempre fatto tutti. Claro, l'antenna ce l'ho io qua e io l'ho aperto, su tutta la zona, essendo in alto, cioè in alto sotto il tetto. Tu devi considerare che lui dalla parte di Sassari ha un terrazzo di 5 piani. Verso Sassari, quindi praticamente lui verso Sassari c'è un palazzo di 5 piani dietro e la donna lì non mi guarda, ti devo pure ammazzare. E davanti non ha niente, davanti dove c'è quell'ufficio, lì non c'è il poggiolo, nella finestra, non si può mettere nessuna parte. No, no, negativo qua, negativo, lui la zona tra porta e verso Trattamora. Tu dietro, diciamo, dalla parte di Sassari c'è un palazzo di 5 piani. Che poi tu passano un metro, tu passano un metro per 5 piani, quanto che fa? Non ce la fa. Allora va bene. Allora caro mio, lì devi mettere un'antenna 5 ottavi, un'antenna che irradi verticalmente solo e che quindi ti dia la possibilità di riuscire almeno al 70% da quella la chiusura che hai lì, capito? Pensavo fosse diverso, ecco perché non ce la fai a uscire. Ma ho capito, ma ho capito. Avanti, Luca. Avanti, Luca. Positivo, positivo. Avanti, Luca. Poi ho Luca Flipper.